Letture di Radio 24. I grandi motori di ricerca sono tutti americani e anche se non fanno pagare i loro servizi, riescono comunque a monetizzare i dati degli utenti. Carlo Jean, docente di geopolitica presso la Link Campus University, è convinto che in futuro, con la crescita esponenziale degli utilizzatori della rete, gli over the top conferiranno un sempre maggior vantaggio competitivo agli Stati Uniti, anche grazie all'asimmetria tra la normativa americana e quella europea. La nostra era dell'informazione comporta l'esistenza in alto dei grandi motori di ricerca, over the top, e in basso dei social network, Facebook, Twitter, eccetera. I primi sono deterritorializzati, non sono soggetti alla giurisdizione e al fisco degli stati, ma solo degli Stati Uniti. Non si limitano a trasmettere notizie. Con incroci dei dati monetizzano le informazioni della rete, creandone nuove di elevato valore politico, strategico ed economico. I principali over the top, Google, Yahoo, Apple e Microsoft, sono americani. La simmetria delle regole statunitensi rispetto a quelle europee e il fatto che la lingua di Internet è l'inglese conferiscono loro un enorme vantaggio competitivo globale. A livello locale, come hanno dimostrato le rivoluzioni colorate e la primavera araba, i social network hanno eroso il dominio informativo che possedevano le piramidi dei sistemi di controllo e di sicurezza degli stati, modificano tempo e spazio. Annullando la distanza fisica fra gli individui, ne consentono la rapida mobilitazione. Internet costituisce una componente centrale del soft power americano. La sua rilevanza è destinata ad accrescersi con l'aumento del numero degli utenti e con la messa a punto di sistemi per analizzare le percezioni e gli umori dei cittadini e dei consumatori e per prevederne e influenzarne le preferenze. L'enorme disponibilità di informazioni e il loro incrocio, automatico e poco costoso, conferisce un potere enorme. Esso aumenterà ancora con l'Internet Protocol 6, che potrà gestire 340 miliardi di miliardi di miliardi di dati. Oggi gli utilizzatori di Internet sono 2 miliardi. Nel 2020 saranno 5 miliardi. Il numero degli accessi cresce all'impressionante tasso annuale del 30-40%. Il vantaggio competitivo che gli over the top conferiscono agli Stati Uniti è accresciuto dall'asimmetria fra la normativa americana e quella europea. La prima privilegia la libertà dei consumatori, la seconda la privacy dei cittadini. Le grandi società over the top non fanno pagare gli utenti, ma monetizzano i loro dati. In termini pubblicitari, Google, 45% della pubblicità su Internet. In termini di e-commerce, Amazon, dell'hardware Apple e del software Microsoft. Come dimostrano le ricerche, gli over the top sono importanti strumenti dell'influenza americana nel mondo. Internet, nato anche per erodere il monopolio degli operatori TLC, ne ha creato altri, permettendo la profilazione degli utenti e un'influenza mirata. La pratica extraterritorialità della giurisdizione e l'assunto della libertà consentono agli Stati Uniti il dominio dell'infosfera e l'esclusione dalla governance di Internet degli stati che si oppongono alla libertà, cioè alla loro influenza strategica. Nel cyberspazio non esistono frontiere, quindi non è praticabile da parte dei governi una difesa dei confini per proteggersi contro intrusioni informative esterne. Anche Mosca e Pechino, che proteggono i loro regimi con lo schermo della sovranità, non possono uscire dalla rete. Sarebbero destinate a un rapido declino. Sono possibili solo limitazioni temporanee degli accessi ad Internet, come quello praticato contro l'onda verde in Iran, con tecnologie fornite da Mosca. Fra controllori e controllati esiste una competizione con aspetti anche gustosi. In Iran, il blocco dei siti blasfemi disposto da Khamenei è stato neutralizzato proprio dai sistemi di filtraggio predisposti per attuarlo. Non è possibile un protezionismo informatico. L'unica possibilità di difesa degli stati europei consiste nel colpire gli over the top con la leva fiscale. Avete ascoltato la lettura di alcuni brani dell'articolo di Carlo Jean, Senza confini, senza difese, dal numero 77 della rivista Formiche. Perché nessuno protesta per le stragi di civili che avvengono in Siria? Siamo tutti ipersensibili per i nostri diritti, ma indifferenti per i diritti negati altrove, commenta Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, evidenziando poi come sia più facile fare battaglie contro lo sfruttamento della donna nelle pubblicità occidentali che combattere contro le persecuzioni alle quali sono sottoposte le donne nei paesi islamici. Ma davvero? Qual è esattamente il meccanismo emotivo e mentale per cui la carneficina in Siria non suscita tra di noi la benché minima protesta per gli oltre 70.000 civili massacrati da un regime sanguinario come quello di Assad? C'è qualche altra spiegazione che non sia la malafede, l'ipocrisia, il doppio standard? Nel mondo occidentale, con tutte le approssimazioni che questo concetto ormai assume, si assiste a un regresso pauroso di attenzione per i diritti fondamentali violati, per l'orrore di operatori umanitari trucidati in Pakistan, perché accusati dagli jihadisti di diffondere con le vaccinazioni i germi della distruzione culturale dell'integrità islamica, per la mattanza di cristiani uccisi solo perché cristiani, per le donne che vengono perseguitate, discriminate, uccise in ragione della loro costitutiva inferiorità, che in Tunisia i fondamentalisti volevano addirittura sancire in un testo costituzionale. Siamo diventati sensibilissimi per i nostri diritti, ma siamo totalmente indifferenti ai diritti negati altrove. Vogliamo il riconoscimento dei diritti pieni e sacrosanti dei gay, ma facciamo finta di niente se i gay palestinesi devono scappare da Gaza per non essere linciati e chiedere rifugio nella nemica Israele. Leggiamo i bollettini degli orrori nel mondo con minor partecipazione della lettura dei bollettini meteo. Le donne vengono seviziate, le minoranze religiose sono perseguitate, le bombe di Assad sono sganciate sui bambini di Aleppo, gli oppositori politici sono assassinati in Tunisia. E chi se ne importa? Ma perché? Non è solo malafede, ipocrisia, doppio standard. È stanchezza, delusione. Il cinismo ha ripreso il sopravvento. La dottrina bushiana dell'esportazione della democrazia sulla punta delle baionette sarà stata pure velleitaria, condotta dissennatamente, come dicono i suoi detrattori, ma almeno aveva il pregio di mantenere acceso un barlume di attenzione verso le violazioni intollerabili dei diritti fondamentali. Oggi l'ONU, ente inutile per eccellenza, procede indisturbato sulla diplomazia del silenzio e dell'omertà. L'opinione pubblica americana ed europea si sente sempre meno bersaglio della guerra santa, che oggi ci appare materia di splendidi film come Zero Dark Thirty della Catherine Bigelow, ma non più come allarme esistenziale angoscioso, pericolo concreto, minaccia incombente. E dunque, perché indignarsi se poi non si sa nemmeno come va a finire? Perché dover ricordare gli orrori del regime di un tiranno pagliaccio come Gheddafi, se i nuovi sembrano pericolosi come lui? E quindi ecco l'indifferenza, il gelo, la disattenzione, la sciatteria con cui si assiste a stragi di civili, come quelle della Siria. Perché dovremmo perdere tempo con loro? Perché dovremmo difendere le donne vessate dai fanatici religiosi, se possiamo fare tante battaglie cool e alla moda contro le pubblicità che denudano le donne d'Occidente? Se non ora, mai. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, Troppo insensibili ai diritti degli altri, dal Corriere della Sera del 25 febbraio. Dieci anni fa, Ruggero Jucker fece a pezzi la fidanzata con un coltello da sushi, gridando «Sono Bin Laden». Oggi è un uomo libero, ma se fosse stato un uomo qualunque anziché un rampollo della Milano Bene, sarebbe ancora in carcere, commenta Aldo Grasso sul Magazine 7. Ruggero Jucker ha lasciato il carcere, pena espiata, grazie a 3 anni condonati e alla liberazione anticipata per buona condotta che hanno eroso un terzo della condanna. Il responsabile di uno dei più efferati e incomprensibili delitti accaduti a Milano, il 21 gennaio è tornato in libertà, a 46 anni e con un'intera vita ancora da vivere. Dal punto di vista giudiziario, nulla da eccepire. Nel processo di primo grado, a Jucker sono stati inflitti 30 anni per omicidio aggravato. In quello di secondo, la condanna è scesa a 16, dopo che il reato è stato derubricato in omicidio non aggravato. come tutti i condannati per reati commessi prima del 2 maggio 2006, anche Juncker ha avuto diritto all'indulto, che, come stabilito dal Parlamento, prevede lo sconto di 3 anni di pena. Da 16, quindi, si passa automaticamente a 13 anni. I detenuti che in carcere si comportano bene godono poi di uno sconto di 3 mesi di pena ogni anno trascorso dietro le sbarre. Si chiama tecnicamente liberazione anticipata e per Ruggero Juncker ha tolto alla pena residua altri 2 anni e mezzo di reclusione, in tutto meno di 11 anni. In cella è stato sottoposto a cure, fornite da uno psichiatra pagato dalla famiglia, perché affetto da un disturbo bipolare dell'umore, grazie alle quali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo la scarcerazione non dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia per 3 anni, come invece era stato stabilito in sentenza. Certo, 11 anni sembrano pochi per un omicidio che dire efferato è poco. Juncker aveva massacrato la povera Alenia colpendola con un coltello da sushi, con decine e decine di coltellate. Viene però il sospetto che se Juncker fosse stato un illustre sconosciuto, le porte del carcere sarebbero per lui ancora chiuse. Ruggero Juncker è, come si dice, un rampollo della Milano Bene. Appartiene a un ramo della grande famiglia milanese Juncker di imprenditori, finanzieri e professionisti in diversi campi, nota fra l'altro per la fondazione culturale e artistica che porta il suo nome. La vittima era originaria di Lecco e abitava a Milano in via Bronzetti. Studiava e il pomeriggio lavorava come commessa in un negozio di confezioni sportive. Gli Juncker hanno avuto i mezzi e le capacità per assistere nel periodo di carcerazione il loro rampollo. Hanno potuto curarlo e adesso è libero. Ma la giustizia non dovrebbe essere uguale per tutti. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Aldo Grasso, Omicida Eccellente, dal Magazine 7 del 22 febbraio.